Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani ad una nuova puntata di Salva Danaio. C'è un'altra operazione straordinaria in vista che arriva non proprio a sorpresa, che riguarda la borsa italiana. Ieri il Banco Popolare ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto su Banca Italise, compiendo così un salvataggio vero e proprio che evita il crack di questa banca specializzata nel leasing alle imprese e non solo. Un crack potenziale paragonato da qualcuno ad una possibile nuova Parmalat, perché il gruppo aveva messo in circolazione oltre 8 miliardi di obbligazioni. Questi strumenti di investimento e di risparmio verranno completamente garantiti dal Banco Popolare, che ha dato appunto la totale garanzia del pagamento delle cedole e del pagamento del capitale a scadenza. La società Italise verrà delistata, cioè cancellata dalla borsa, a distanza di 5 anni dalla sua quotazione avvenuta nel giugno del 2005, per l'appunto del 2004, anzi nel 2005. Oggi a Salva Danaio vi spieghiamo i termini di questa operazione, cosa devono aspettarsi oltre agli obbligazionisti anche i piccoli azionisti del gruppo che viene cancellato, ma anche i piccoli azionisti di tutte le banche coinvolte in questa operazione, a cominciare dal Banco Popolare, che si imbarca appunto di un salvataggio che gli costa 1 miliardo di euro. Ieri il mercato lo ha tra l'altro fortemente penalizzato, oggi il gruppo Banco Popolare in borsa torna a crescere di circa 2,5 punti, ma in ogni caso sembra che il mercato sia piuttosto guardingo intorno a questa operazione. Ne parleremo naturalmente con i nostri ospiti, cercando di rispondere anche alle vostre sollecitazioni, alle vostre domande, cercando anche di capire, così entrando nel merito della terminologia finanziaria, che cos'è un OPA, che cos'è un delisting, e così cerchiamo anche di far comprendere l'argomento di questa mattina, al di là della sua valenza industriale e finanziaria, a chi non è direttamente coinvolto nell'operazione. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione per intervenire in diretta. Ci potete come sempre anche scrivere al 349-238-6666. I nostri ospiti di questa mattina: Alfonso Scarano, analista finanziario indipendente, membro dell'AIAF, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. Dottor Scarano, benvenuto a Salva Danaio. Grazie a voi. E buongiorno anche all'avvocato Pierluigi Fadel, legale dello studio Fadel e Polati Associati di Verona, con il quale ci avventureremo anche nella ricostruzione storica della vicenda che ha portato all'epilogo di cui racconteremo questa mattina, delle vicende appunto di Banca Italise. Avvocato Fadel, buongiorno. Buongiorno a voi. Lo abbiamo interpellato perché, se non ho letto male da qualche articolo che ho trovato appunto così curiosando su internet, avvocato Fadel, lei in passato è stato interessato alla vicenda della Banca Italise perché ha seguito un po' di aziende che avevano sottoscritto prodotti derivati con questa banca, giusto? Sì, ho rappresentato diversi miei clienti che avevano appunto sottoscritto operazioni, strumenti derivati, in particolare uno contratto swap con Banca Italise. Ecco, tra l'altro, insomma, questo è un passaggio cruciale poi per la vicenda e la storia di questa banca, che aveva portato anche ad una vicenda giudiziaria molto pesante, che aveva a sua volta portato i vertici della banca anche in carcere. Insomma, ci ritorneremo nel corso di tutta la trasmissione, ma soprattutto a noi stamattina interessa capire cosa succede adesso ai piccoli azionisti della banca, che evidentemente devono cercare di capire se è per loro conveniente o no accettare i termini dell'offerta pubblica di acquisto, che sono ovviamente minimi, visto che l'offerta è stata fatta ai prezzi minimi sui quali il titolo viaggia da qualche settimana a questa parte, ma ovviamente in molti si ritrovano invece ad avere un prezzo di carico delle azioni molto molto più alto, dati i livelli a cui Banca Italise era arrivata qualche tempo fa. Insomma, tante cose di cui avremo modo di parlare nel corso della mattinata. I numeri ve li ho ricordati. Intanto la borsa stamattina è complessivamente negativa in tutta Europa, anche se il trend negativo è rallentato nel corso della mattinata. Le borse perdevano un po' di più, poi è arrivato lo ZEV, l'indice di fiducia tedesco, che è risultato migliore delle attese. Questo ha aiutato un pochino le borse a riprendersi. La peggior piazza d'Europa è proprio Piazza Affari, che sta perdendo l'1,10% sull'S&P MIB, oltre agli occhi puntati sul Banco Popolare. Abbiamo attesa anche per Unicredit. che oggi riunisce il Consiglio di Amministrazione. Il gruppo dà il via libera ai conti del 2008, ma soprattutto dovrebbe dare delle indicazioni più o meno chiare sulla sua intenzione di utilizzare o meno i cosiddetti Tremonti Bond. Buzzi Unicem, miglior titolo della seduta in questo momento a Piazza Affari, più 3,64%, mentre i ribassi sono piuttosto intensi su Italcementi, meno 5, Bulgari, meno 5, Ubibanca, meno 4, Geox, meno 3,3, Pirelli, meno 3, Mondadori ed Autogrill, meno 3, meno 3 anche per Luxottica, Fastweb, Intesa San Paolo, meno 2,5 punti per Eni. Lasciamo la borsa, parliamo, come vi dicevo oggi, delle vicende di Banca Italis. Dopo oltre 40 anni di attività e quasi 4 anni dalla quotazione in borsa, la parabola per questa banca si chiude con l'uscita forzata dal listino di Piazza Affari e con un piano di salvataggio messo a punto dalle banche popolari azioniste. Sentiamo. Addio al listino per Banca Italis. La società si appresta infatti ad abbandonare Piazza Affari dopo l'offerta pubblica d'acquisto annunciata ieri dal Banco Popolare, il primo azionista singolo. Un vero piano di salvataggio dell'istituto di leasing che prevede innanzitutto il delisting di Italis, cioè la cancellazione dalla borsa, poi la suddivisione degli asset. Quelli tossici, e cioè i quasi 4 miliardi di crediti a rischio, confluiranno in una bad bank partecipata all'80% da Banco Popolare. Ma come si è arrivati a questo punto? Dal 1995 Banca Italis è la prima banca specializzata nel leasing in Italia. La sua storia però inizia nel 1968, quando viene fondata su iniziativa di 52 banche popolari che ancora oggi sono tra gli azionisti principali. Arriva in borsa nel giugno del 2005 e i suoi titoli incontrano subito il gradimento del mercato. Viene collocata a 9 euro per azione e 4 mesi dopo, a metà ottobre, ne vale già più di 20. La quotazione massima è raggiunta a febbraio 2007 a 57,2 euro per azione, dopo che la società ha visto letteralmente decuplicare i propri utili in 3 anni. Nella primavera del 2007, però, tutto precipita. Consob e Bankitalia scoprono che la gestione dell'amministratore delegato, Massimo Faenza, ha causato perdite per 700 milioni di euro a causa degli strumenti derivati. La distrazione del denaro della banca era resa possibile da una ingiustificata attività di collocamento e vendita di derivati di natura speculativa, che generava ingentissimi flussi di cassa positivi per Banca Italis da parte di diverse banche d'affari. Su pressione della Banca d'Italia, Italis ha reagito alla crisi con l'azzeramento dei vertici e mettendo a punto un maxi aumento di capitale. Ma non è bastato. La crisi finanziaria porta i principali clienti del gruppo, cioè alcune delle più grandi società immobiliari italiane, a non rientrare dei loro finanziamenti. Circostanza che mette Italis con le spalle al muro e porta il titolo ad una perdita del 97% del suo valore dai picchi del 2007. Il titolo vale oggi un po' al di sotto di 1,50 euro, che è il prezzo che il Banco Popolare paga per l'offerta pubblica di acquisto. Tra l'altro, i dettagli dell'operazione dell'OPA che il Banco Popolare lancia sono stati spiegati ieri nel corso di una conferenza stampa dall'amministratore delegato del gruppo, Pierfrancesco Saviotti. La conferenza stampa è stata seguita per noi dalla nostra Valeria De Rosa. Allora sentiamo intanto Saviotti su questi dettagli di questa operazione. Ecco Saviotti che arriva. Italis resterà 100% del banco, dopo essere stata svuotata di alcuni asset, perché l'accordo quadro prevede che siano costituite 2 newco. Nella newco 1 saranno conferiti tutti gli asset non performing, che potete rilevare essere quantificati in 5 miliardi circa. Di questi 5 miliardi, più o meno 3 miliardi e 2 sono incagli e sofferenze legati a leasing immobiliari. Ci sono dei prodotti che sono particolarmente buoni, ci sono immobili in Monte Napoleone, immobili in Piazza del Duomo, e su questi immobili c'è molto interesse. Questa newco avrà un patrimonio che varierà tra i 300 e i 400 milioni, deve ancora essere decisa l'entità, e noi avremo l'80% di questa equity, perché gli accordi sono che noi ci teniamo l'80% e le altre banche il 20%. L'altra, che chiamiamo newco 2, avrà asset rappresentati da leasing e da mutui per circa 5 miliardi e 9. E questi asset sono leasing e mutui in bonis, e in questa società il banco avrà una quota del 32,8%. Insomma, un vero spezzatino sul quale poi torneremo con i nostri ospiti, se qualche termine non lo avete capito, perché comunque è un procedimento anche piuttosto complesso. Sentiamo ancora un altro stralcio tratto dalla conferenza stampa di ieri dell'amministratore delegato del Banco Popolare Pierfrancesco Saviotti sulla tempistica dell'operazione dell'offerta pubblica di acquisto su Banca Italease. La situazione che si concretizzerà nel momento in cui l'OPA sarà chiusa, è ragionevole ritenere che ci vorrà qualche mese, pensiamo che si possa arrivare alla fine di giugno, e pensiamo che tutte queste operazioni di conferimento e o di scissione potranno concretizzarsi e finire tra, penso, ottobre e novembre, comunque necessariamente prima della fine dell'anno. Insomma, solo l'imbarazzo della scelta sui punti dai quali partire. Allora, Scarano e avvocato Fadele, sapete che cosa faccio? Parto con un ascoltatore per cercare di capire quali sono a questo punto i quesiti, gli interrogativi più diffusi fra chi a vario titolo ha investito in Banca Italease o attraverso strumenti obbligazionari o attraverso la borsa. Ciro da Salerno, benvenuto tra noi. Sì, pronto, buongiorno, saluti a tutti. Buongiorno, ci dica. La mia domanda è questa: io sono un azionista Italease, sì, e incarico dei titoli al prezzo di 6 euro. Sì. In effetti la mia idea è quella di non aderire logicamente all'OPA, perché andrei a perdere comunque una bella differenza. Eventualmente l'OPA vada in porto, io non ho aderito all'OPA, che cosa succede? Che cosa succede? Ciro, la ringrazio, credo che nelle sue condizioni si trovino in molti, magari qualcuno che, nonostante la parabola discendente della borsa che era stata intrapresa da qualche settimana, o non ha voluto disfarsi di questo investimento, o non ha avuto il tempo, il modo di farlo, si ritrova nella stessa condizione. Prima della trasmissione ci è arrivata anche una mail di Silverio, che lo stesso ha acquistato azioni Italease in due tranche. In un caso ha acquistato 9.100 azioni a 7,5 euro, e poi 145 azioni a 5 euro e qualcosa. Allora, Alfonso Scarano, comincio con lei sui termini dell'operazione. Il Banco Popolare lancia l'offerta pubblica di acquisto a 1,50 euro, che è comunque un prezzo un po' superiore rispetto alla media di mercato recentissima, però è ovviamente molto inferiore rispetto alle quotazioni più felici di qualche mese fa. Intanto le chiedo un giudizio su questo. Comunque mi complimento sulla ricostruzione storica, perché è un esempio molto, molto particolare quello di Italease, di un grande boom, di un'impresa quasi dopata in alcuni aspetti del proprio conto economico, e poi una vicenda che si è fortemente aggravata, e il grafico dei prezzi ricalca esattamente l'andamento negativo di un business che non era esattamente un business e che ha presentato i conti. Quindi, se uno guarda il grafico, assiste effettivamente a un depauperamento continuo, e il mercato ha mano a mano sempre scontato le notizie e le informazioni che si rendevano disponibili. Questo fino agli ultimi tempi, dove ha sopportato la minore appetibilità in maniera molto grave, proprio per le informazioni che mano a mano si evidenziavano sugli incagli sempre più consistenti. Perché, se è vero che Italease è emerso alla notizia di cronaca per i fatti sui derivati, che erano stati effettivamente molto negativi e travolgenti, effettivamente però il nocciolo duro delle questioni viene da tutta un'attività di finanziamento dell'immobiliare che ha dato il là a fasi speculative, ma che a questo punto gli immobiliaristi non sono trovati in grado di onorare. Infatti, quindi diciamo, ci si è messa anche rispetto ad una vicenda propria, la ingiustificata, come abbiamo definito nella nostra scheda, attività di collocamento di prodotti derivati, che ha portato anche all'apertura di un'inchiesta giudiziaria pesantissima, come dicevamo, ci si è messa anche la crisi finanziaria, che ha portato molti immobiliaristi nel nostro paese a forti difficoltà, e di conseguenza Banca Italisa ha dovuto sobbarcarsi anche di questa, no? Della crisi finanziaria che ha incrociato. Sì. Se posso permettermi, lo scenario con cui sono stati fatti questi finanziamenti così poderosi in un momento di boom del mercato immobiliare di qualche anno fa, diciamo che la banca non è stata esattamente lungimirante nell'equilibrio e soprattutto nella composizione dei propri portafogli, ecco. Questo si ricalca e si evidenzia con incagli decisamente formidabili, ecco, rimaniamo abbastanza impressionati di fronte a certe cifre. Più di 3 miliardi di euro, come spiegava l'amministratore delegato Saviotti. Detto questo, Scarano, torniamo al tema che ci ha posto il nostro ascoltatore. Comunque molti hanno un prezzo di carico enorme, qualcuno che non ha fatto in tempo a scappare anche quando è esplosa la vicenda giudiziaria, perché secondo me anche quella sarebbe servita a scappar via da una società quotata. Detto questo, qualcuno comunque magari ha voluto puntare sul business industriale, su azionisti anche di tutto rispetto di questo gruppo. L'offerta pubblica di acquisto viene fatta ad 1,50 euro. Adesso in molti si trovano di fronte al dilemma: aderisco o non aderisco? Intanto ci spiega in termini semplici, come se lo spiegasse ad un bambino di 5 anni, esattamente un'OPA che cos'è? Allora, un'OPA, OPA, sta offerta pubblica di acquisto, è regolamentata da varie normative, e probabilmente il collega Fadel può essere molto più preciso. E allora adesso lo interroghiamo. Sì. Ma nello specifico si rende trasparente rispetto al mercato la decisione di un soggetto nell'acquistare a un determinato prezzo le azioni. Questo soggetto, questo caso il Banco Popolare, è tenuto a fare questa offerta pubblica di acquisto perché possiede più del 30% del capitale. È l'azionista di riferimento, sì. Dell'OPA. E quindi è obbligato a fare l'OPA. Poi, durante il processo di definizione di tutti i parametri dell'OPA c'è anche la determinazione del prezzo. E nella determinazione del prezzo, il prezzo dovrebbe rispecchiare certi criteri di congruità e di evidenziazione delle logiche con cui è stato determinato, perché effettivamente la forbice degli ultimi mesi è molto ampia. Il collocamento di un prezzo a 1,50 euro rispecchia le più recenti quotazioni, cioè è leggermente migliorativo dei prezzi minimi dei minimi. Quindi diciamo che l'azionista di riferimento che si imbarca già di un costo enorme per questa operazione, perché poi con tutto lo spezzatino che abbiamo spiegato prima si incarica anche di tutte le attività tossiche, della gestione di queste, della sistemazione anche di queste situazioni pendenti. E in ogni caso è già un'operazione molto costosa, era difficile immaginare che potesse proporre un prezzo più alto il Banco Popolare, Scarano. D'altro canto però noi c'è una collimanza tra le informazioni di dettaglio che noi abbiamo, tipo questi incagli poderosi, perché sono andati mano a mano accrescendo, e quindi c'è una convergenza in una situazione temporale in cui veniamo messi di fronte a questa offerta pubblica di acquisto, e qui, insomma, di fronte a questi numeri formidabili degli incagli, di fronte a un patrimonio netto effettivamente molto volatilizzato, e di fronte a un'oggettiva necessità di salvataggio, cioè si tratta effettivamente di un salvataggio. Però, se posso permettermi. Sì, la posso chiedere. Prego. Di rinviare ad una seconda parte ulteriori considerazioni, perché altrimenti l'avvocato Fadel penserà che l'ho invitato per scherzo questa mattina. In realtà tra un po' devo dare la linea anche ai nostri colleghi della redazione per pochi minuti per le anticipazioni del GR Extra Large. Avvocato Fadel, chiedo anche lei magari se vuole un punto di vista su questa questione del prezzo, che ovviamente è totalmente insoddisfacente per molti piccoli azionisti. Qual è la tutela degli azionisti di minoranza in operazioni di questo tipo? Ma dunque, dottoressa, innanzitutto stavo ascoltando prima con piacere l'ingegner Scarano. Prima di rispondere a questa sua domanda, e comunque ci arriverò, molto brevemente mi volevo un attimino riallacciare anche per far capire magari forse meglio a chi ci sta ascoltando che cosa si intende per strumento derivato, in quanto per noi magari sono concetti giuridici scontati, per chi magari invece non è un addetto ai lavori non sono invece cose così sconosciute. A Salva Denaio oggi la vicenda della banca Italease, sulla quale ieri l'azionista di maggioranza, il Banco Popolare, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto. Lo stiamo cercando di capire i termini di questa operazione e soprattutto cosa devono fare a questo punto piccoli azionisti, ma anche ex piccoli obbligazionisti che sono un po' più tutelati in tutta questa vicenda. Ed eravamo rimasti ad una considerazione che stavamo facendo con l'avvocato Pierluigi Fadel, che stamattina insieme a Alfonso Scarano, analista finanziario, ci stanno aiutando a capire appunto i termini di questa vicenda. Avvocato Fadel, so che lei ci voleva spiegare la questione dei derivati perché è un nodo importantissimo che porta anche all'epilogo di Banca Italease di cui stiamo raccontando questa mattina. Le chiedo però un attimo, siccome mi faccio anche interprete di molti interrogativi di molti ascoltatori che adesso sono un po' meno interessati all'aspetto dei derivati ma più interessati evidentemente a quanto accadrà da qui ai prossimi mesi al loro denaro, se ci aiuta a capire la questione dell'OPA un po' più nel dettaglio, perché in molti, addirittura un ascoltatore ci ha chiesto, Dario ci ha scritto, voleva sapere in quanti percentualmente sono come piccoli azionisti, io non dispongo di un dato di questo tipo, ma lui chiede se molti di noi decidessero di non consegnare le azioni in offerta pubblica rispetto appunto di non consegnare quindi le azioni al Banco Popolare che poi vuole delistare Banca Italease, cosa succede? Ci aiuta a capire questo aspetto? Sì, ma allora io allora partirei dalla definizione di offerta pubblico di benissimo acquisto. Cercherei un attimino anche di spiegare che cosa si intende. Si tratta di un'offerta pubblica di acquisto volontario che il Banco Popolare fa sulla totalità delle azioni di Banca Italease che il Banco Popolare non detiene. Le azioni non detenute da parte del Banco Popolare sono di circa, dunque ne detiene 69,3% del capitale sociale. Quindi questa offerta pubblico d'acquisto mira ad avere il controllo totalitario del 100% del capitale di Banca Italease. Un'OPA può essere fatta banalmente perché un'azienda ne vuole scalare un'altra, in questo caso il contesto è molto diverso, è un vero salvataggio, però i termini sono quelli. Esattamente, il salvataggio tra l'altro sarebbe proprio indirizzato, se vogliamo, al piccolo azionista, il quale non crede più nel vecchio management, in questo caso di Banca Italease. E diciamo che scongiura anche un crack che poteva avere conseguenze ben peggiori, quantomeno qualcuno il proprio capitale, anche se ha perso molto, lo può anche salvaguardare. Se fosse arrivato un fallimento non so che cosa sarebbe successo, quindi l'ipotesi estrema non esiste, però vediamola anche da questo punto di vista, invito molti anche a così vederla anche da questo punto di vista, poi capisco che è un po' difficile. Considerazione corretta, anche se effettivamente è dura da digerire. Il fatto che venga offerto 1,5 euro per azione quando magari si hanno in carico titoli a 9, 10, 20, 30, 40, 50 e magari a 54 euro. Esatto. Quindi, ovviamente tutto questo da un punto di vista squisitamente finanziario, ovviamente per il piccolo azionista pesa molto. Allora, mi dica. Mi verrebbe però da dire che tutto sommato uno scenario di apprezzamento del titolo a medio-lungo termine, a mio avviso, con ogni probabilità non ci sarebbe stato. Non c'era. No, non c'era, anche perché se noi riprendiamo la presentazione fatta dal consigliere Saviotti, quando fa riferimento alla bad company, quindi al fatto che lì andranno a confluire tutti quei crediti non performing, e qui fa ovviamente riferimento a tutti quei contratti di leasing in relazione ai quali i canoni di leasing probabilmente non sono stati pagati dai clienti, certo, di Banca Italease, la quale però rimane comunque proprietaria di beni immobili, come giustamente faceva osservare anche lei, di pregio, a Milano, a Roma. Però il problema è che non c'è liquidità. Il problema è rappresentato dal fatto che comunque il locatario, che sarebbe colui che ha contratto con Banca Italease, un contratto di leasing finanziario, non ha la disponibilità per far fronte al pagamento della rata. Quindi il credito inevitabilmente si incaglia. Si incaglia, infatti. Inevitabilmente si incaglia. Ecco, per siccome questo... lei, no, tra l'altro, avvocato, voleva ribadire l'aspetto del derivato, no, che è la questione sulla quale si è sbattuta poi, incontrata la magistratura 2 anni fa. No, un attimo solo, le voglio far sentire una considerazione di un ascoltatore in modo tale che poi questo le permette anche di precisare quegli aspetti. Vito dalla provincia di Trapani. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire per capire un po', se riuscite a farmelo capire, la funzione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha solo ed esclusivamente una funzione, quella di controllo. Verifica se c'è un rapporto fra capitale e investimento e naturalmente non può andare oltre determinati limiti che sono imposti per legge. Mi pare che in questi ultimi tempi non solo la banca di cui stiamo parlando, ma anche gli altri istituti come Unicredito, Banca Intesa ed altro, pare che abbiano sforato queste percentuali di rischio senza che la Banca d'Italia sia intervenuta e forse non può intervenire, essendo magari le banche azioniste della Banca d'Italia. Insomma, arrivato a un certo punto non capisco più la funzione della Banca d'Italia, perché mi pare che diventi un carrozzone come tutti, allora, gli altri, Vito, se non avendo alcuna funzione. Vito, la ringrazio, credo che tra l'altro questa riflessione si sia posta più volte. Il tema è che tutti questi asset in pancia ai bilanci delle banche si sono deteriorate in maniera talmente rapida e inattesa in certi casi, che forse è rimprevedibile anche per gli stessi organismi di vigilanza, ma questo è un grandissimo tema che si stanno ponendo a livello internazionale. Detto questo, tornando a Banca Italisa, avvocato Fader, la Banca d'Italia il suo lavoro l'ha fatto e come, perché li ha ribaltati con una ispezione che è durata anche un bel po', se non ricordo male. Allora, è durato un bel po', anche perché in un certo periodo Banca Italisa pareva che non avesse l'autorizzazione a collocare gli strumenti derivati. Pertanto in questo caso, insomma, Banca d'Italia mi pare che abbia diciamo vigilato in modo corretto. Il problema ovviamente è riconducibile purtroppo e ritorno alla collocazione di questi strumenti derivati, che poi hanno contribuito in maniera sensibile al dissesto di Banca Italese, perché non dimentichiamo che Banca Italese nasce come banca specializzata nella sottoscrizione di contratti di leasing. Purtroppo nel 2007 questi contratti di leasing vengono affiancati da contratti swap, strumenti derivati che di per sé avrebbero potuto garantire il cliente da un rischio del rialzo di eventuali tassi di interesse, perché magari avevano sottoscritto contratti di leasing. Il problema però forse si è posto nel senso che i contratti di swap derivati avevano dei parametri finanziari non proprio di hedging o comunque di copertura, perché introducevano magari opzioni digitali eccetera. Insomma, quindi, terminologia incomprensibile, figuriamoci cosa... No, ma no, avvocato, non è che lo sto, per carità, come dire, contestando a lei, questo è, figuriamoci, un piccolo imprenditore che va in banca a chiedere un leasing per mandare avanti la sua attività, cosa può capire nella sottoscrizione di prodotti derivati che teoricamente lo dovrebbero tutelare e proteggere dagli sbalzi delle valute piuttosto che dall'aumento dei tassi di interesse, si trova invece a sottoscrivere degli algoritmi complicatissimi dai quali poi non se ne esce, e soprattutto adesso abbiamo visto quanto costa anche. Ecco, giusto? Niente, nulla, giustissimo. Adesso non so magari se rischio di uscire fuori tema, ma forse no, e proprio per questo mi riaggancio non alla Banca d'Italia, ma mi riaggancio alla Consob, comunicazione recente del 2 marzo, quindi cosa deve fare l'intermediario bancario nella collocazione di strumenti liquidi, e tra gli strumenti liquidi vi sono anche i contratti derivati, quindi obbligo di disclosure, quindi obbligo di trasparenza, obbligo di spiegazione della componente implicita e della componente esplicita. Avvocato, posso accantonare con lei questo discorso solo perché molti ascoltatori, e hanno ragione, mi continuano a chiedere, ma insomma, non lo state spiegando, ci state girando intorno, se non aderisco all'OPA, sono un piccolo azionista, non consegno le mie azioni, che cosa mi succede? Ce lo puoi spiegare in termini semplici? Certo, allora, il tutto viene normato, testo unico finanza, dall'articolo 108, che prevede che laddove a seguito dell'OPA si venga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione, si ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi da parte di coloro che ne facciano richiesta, sempre che non venga in un determinato lasso temporale, mi pare 90 giorni, ripristinato un flottante che deve essere sufficiente a regolare l'andamento delle negoziazioni. Quindi questo è quello che capita nella norma nel caso in cui non si aderisca all'OPA. Però il caso di Italisa è un po' diverso, perché l'obiettivo del Banco Popolare è di delistare la società. L'obiettivo del Banco Popolare Cancellarla dalla borsa? Sì, l'obiettivo è quello di cancellarla dalla borsa, quindi è assolutamente verosimile. Proprio stamattina ci stavamo confrontando anche con l'ingegner Scarano proprio a questo riguardo, quindi appare assolutamente inverosimile che poi venga costituito un flottante sottostante. Ecco, ma in quel caso lì, se non le consegno in qualità di piccolo azionista perché il prezzo non mi convince, che cosa succede? Divento comunque azionista della nuova società che non è quotata? Sì, perché sostanzialmente non è il fatto che il prezzo mi convinca o non mi convinca, perché poi il prezzo viene determinato sulla base di una media aritmetica ponderata degli ultimi 12 mesi, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente il prezzo potremmo dire che poi potrebbe essere corretto. È evidente che nel momento in cui non aderisco ad un'OPA io mi ritrovo a detenere un titolo che non viene poi alla fine scambiato in quanto non domanda e offerta non si incrociano. No, perché non esiste proprio la quotazione. No, capire quindi che cosa succede. Io magari se riuscite un attimo a essere un po' più chiari su questo, vi sarei molto grata, perché capire, visto che comunque si costituiscono nuove società, delle newco, come Staviotti ieri ha promesso, capire anche se gli azionisti della vecchia società quotata in borsa hanno in qualche modo il diritto di entrare come azionisti di questa società pur non essendo quotata, perché non credo che questo sia del tutto impossibile. Non lo so, ma magari dico la banalità più enorme del mondo. Salva Danaio sul caso Italisa in questa mattinata. Volevo sentire anche Nicola dalla provincia di Imperia, perché ci siamo soffermati sul caso degli azionisti della banca, però ci sono anche un bel po' di obbligazioni in circolazione. Nicola. Sì, buongiorno a tutti. Io non sono possessore di obbligazioni, ma di un quantitativo importante come piccolo azionista. Infatti era Angela da Udine che doveva intervenire su questo. Ecco, la mia media, posso dire, siamo a 31 euro per azione, comprate in diverse tranche da 22 a 54. In che periodo le ha comprate, Nicola? Non al picco di 57, comunque. In che periodo le ha comprate, Nicola, per curiosità? Prego? In che periodo le ha comprate? Ma negli ultimi 2 o 3 anni. Ma lei, quindi, quando c'era la vicenda giudiziaria, non si era spaventato un po'? Perché è stato attratto da questo investimento? Certo, mi sono spaventato un po', però la questione era questa. Fino a 2 anni prima noi abbiamo avuto un dividendo di 850 centesimi, quasi un euro, la metà di quello che vogliono dare, di più della metà di quello che vogliono dare adesso, e questo è stato pagato 2 anni fa. Io ho aderito anch'io all'aumento di capitale che era stato proposto come soluzione ai problemi causati dai manager di quel tempo, e nonostante tutto siamo arrivati a questo punto. In 2 anni non è possibile che siamo arrivati a questi livelli, o prima non siamo stati informati correttamente, e cosa faceva il Banco Popolare e le altre banche nel momento in cui le azioni andavano su in maniera abbastanza anomala? Il controllo loro lo potevano avere. Io, piccolo azionista, potevo andare anche all'assemblea, ma cosa potevo fare? Loro avevano la possibilità comunque un grande azionista ha degli strumenti diversi, ovvio. Io penso però una cosa, io mi sento veramente in questo modo, mi sento è stato fatto a tavolino un discorso di questo genere, oppure no? L'investimento azionario è a rischio, ma quando si sente particolarmente colpito uno da un evento che viene deciso in questo modo, dalle irresponsabilità dei manager. Ora, la proposta di delisting vedo un modo per far pagare a noi piccoli azionisti indifesi buona parte degli errori dei manager, non solo. No, Nicola, di controllo. Condivido pienamente, guardi, purtroppo il tempo mi sta sfuggendo di mano, vorrei far sentire anche altri ascoltatori. Il tema è quello che le dico io, capisco perfettamente tutta la sua amarezza, che è il prezzo che non le sta, una gestione che è stata probabilmente non perfettamente puntuale rispetto a quello che stava accadendo in casa. Io ci sta tutto quanto rispetto a quello che sta dicendo. Detto questo, io ritorno sul punto che le ho chiesto, ma con una vicenda giudiziaria enorme come quella che ha colpito la banca nel 2007, ma non basta a farvi fuggire dalla borsa? Questo dico, poi sarò anche Alice nel Paese delle Meraviglie qualche volta, è un po' come quelli che mi dicono ho comprato un anno fa l'Italia perché il Presidente del Consiglio aveva promesso che l'avrebbe salvata, ma dopo 10 anni di dissesto continuo, questo a me basterebbe a star lontana da un investimento di questo tipo, quantomeno puntare un investimento di questo tipo, poco denaro quindi. Però io, con tutto il rispetto per il nostro ascoltatore, naturalmente adesso sento anche i nostri ospiti che cosa ne pensano. Ci metto però anche Angela da Udine, a cui voglio rispondere rapidamente. Angela, buongiorno. Sì, pronto? Angela, ci siamo. Ecco, io ho preso delle obbligazioni da una banca popolare, sì, qui a Udine, sì, nel 2005 e mi scadono nel 2012. Sono obbligazioni Italie, ma sono obbligazioni Italie, sì. Allora, per posso questo le rispondo, oppure... sì. Oppure no, allora Angela, la saluto rapidamente perché su questo sono tranquilla. Si prende anche il Sole 24 Ore di questa mattina, Alberto Grassani lo scrive chiaramente nelle primissime righe di attacco al suo pezzo. Il Banco Popolare ha assolutamente fornito ogni garanzia sul pagamento delle cedole, sul rimborso del capitale a scadenza a tutti i sottoscrittori degli 8,3 miliardi di euro di obbligazioni che teoricamente sono definite spazzatura perché adesso l'emittente è teoricamente insolvente, ma il Banco Popolare si incarica anche di restituire tutto agli obbligazionisti di questi strumenti di investimento. Tornando invece agli azionisti, Alfonso Scarano, che ho abbandonato da un po'. Per essere chiari, sì. Allora, ci sono due ipotesi. Nel momento in cui il Banco Popolare supererà quota 90, delisterà il titolo. Ecco, chi ha ancora a mano il titolo ha la possibilità di vendere in ultima istanza i propri titoli, oppure si troverà in mano un titolo che non verrà scambiato, che in realtà perderà la totalità del suo valore in sostanza. Un'altra ipotesi è che il Banco Popolare non raggiunga il 90% e allora non potrà delistare il titolo. E allora gli azionisti potranno far valere con una società quotata i loro diritti, soprattutto aggregandosi, ecco, perché purtroppo il singolo azionista ha ben poche manovre rispetto al proprio possesso azionario. Ecco. In realtà quello che mi sembrerebbe interessante indagare è come si sia arrivati a questa situazione di ultima istanza, perché accennavo prima a una sorta di convergenza mediatica di diverse informazioni, tendenzialmente, sostanzialmente negative, perché l'emersione mano a mano di notizie negative sugli incagli è stata continua, con il concomitante downsizing, cioè abbassamento del titolo quotato. Sì. A questo punto il Banco Popolare piazza sul tavolo un po' di soldi e ramazza via tutto. Se devo essere però molto sincero, è una brutta fine, ecco, per Banca Italease, che sparisca dal listino. Manca anche l'opportunità di creare molta trasparenza, una necessaria trasparenza, e in ogni caso sono molto negativo alla nuova logica delle pezzi pattumiera e dei pezzi buoni, sì, che... anche perché poi i due si dovranno scambiare questi asset a determinati prezzi, e allora calmeranno la situazione. Allora Scarano, la devo interrompere perché io fra un minuto devo chiudere. Ho capito che i termini della questione sono enormi, tanti e di difficile trattazione anche nel poco spazio che abbiamo. C'era Mara da Milano che voleva intervenire, non riesco. Mara, sintetizzo io la sua domanda per lei. Il marito ha una piccola impresa, 5 anni fa ha sottoscritto un leasing con Italease per evidentemente comprare il capannone, ha contattato la Banca Popolare per rinegoziare il leasing, adesso non so che risposte abbia ottenuto, che cosa succederà. Avvocato Fadel, mi aiuta lei su questo? Ma allora, in 30 secondi? Bisognerebbe forse magari conoscere meglio la vicenda. Ecco, teniamo presente che il contratto di leasing è una vicenda contrattuale e quindi nel momento in cui ci si rende inadempienti ad un contratto, lo stesso può essere sì rinegoziato, però ovviamente sempre sulla base dell'accordo con il concedente, che in questo caso qui è Banca. Quindi non credo che il nostro ascoltatore debba temere nulla. Io non riesco a farvi ancora intervenire, purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma siccome è una vicenda dalla quale temo che si continuerà a parlare ancora un po', proprio per i termini aperti questa mattina anche di insoddisfazione di piccoli azionisti, magari ci ritorneremo. Tra l'altro poco fa ha parlato anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi in un'audizione in Commissione Finanze alla Camera, è andato proprio anche sul tema dei Tremonti Bond, e non ci dimentichiamo che il Banco Popolare ha fatto formale richiesta per questi strumenti per ricapitalizzarsi per 1,5 miliardi di euro. 1 miliardo di questi soldi vanno a salvare Italise. Per ora è tutto, grazie per averci seguito, noi ci risentiamo domani, grazie ad Alfonso Scarano, l'avvocato Fadel, non posso farli salutare, ma ci risentiamo in un'altra occasione. A presto.